dai De Garoli. Eccola, Fufia. Eccola, Fufia. Andiamo, dove andiamo? Che te? Dai qua, Fufia. Claudio, ci sei? Tonino, ci sei? Attento, guffetto. Oh, Lazia, come mi ascolti? Con le orecchie. Ma io bene mi ascolti, 1, 2, 3, prova. E fai un altro passaggio appena più lungo. 2, 3, prova, radio, prova bene. Buona, buona, perfetta. E che radio è? TS 440. Ma di chi si di macchina? Questo è un Kenwood TS 440, no, portatile. Ah, portatile stesso. Lo conosco, ma è grande, è grosso. O piccoli come te che vabbè monù. Ma adesso se non esci più. Ah, non l'ho fatto. Adesso lo guardo, aspetta. Andiamo, andiamo, chiede. Ehi, che è bellino, hai i vecchi minori di lume. Ma l'hai buscato, te l'hanno regalato. Comprato 150 euro. Ma Marcus, chi l'ha giocato 36 euro io? E chi ce l'ha pagato 150 euro? Cazzo, 4 messia. Ma il tuo, tu? E allora, il mio è GT3 TP. E la marca, così è. Ma il boyfriend c'hai? Non è boyfriend questo, è GT3 TP. Ehi, e questo qua è il mio, è della Intec però, ecco perché costa così. E questa è della GT3 TP. Il boyfriend è quello simile a questo, però neanche. È più piccolo di questo. Questo c'è la batteria. Ma grazie, questo qua è il mio, della Intec, capito? Ah, cioè ti mando la foto. Andiamo, andiamo, chiedi. Grazie allo stoppone, ci sei. Ti è arrivata? Ehi, è il sacaricano, grazie. Aspetta, intanto con questa abbiamo fatto la prova. Non è acqua? No, la se n'è andata verso le 3, manco 25, da 2 metri. No, ho guardato se non ce n'è. Sono arrivato all'1. Ma io me ne sono accorto dalle 11:30, papà, andate diminuendo, poi non ci ho guardato, quando ha visto mia moglie riballarsi le mani, non vedrai, e ha detto, mi l'ho immaginata. Ma non ha acceso l'autoclub. Avrà visto verso le 6 verrà, penso. Oh, sì. Adesso ce l'ho salvato io pieno. Non ci fa nulla intanto, c'è tutto pulito. Ma uno, questa qua è quella di prima, ok? E questa qua è l'altra. Com'è? Che è meglio? Questa, 1, 2, 3, prova. O questa, 1, 2, 3, prova. No, l'altra mi sembra più squillante. Questa qua, 1, 2, 3, prova. Sì, questa è più squillante. Boh, prova l'altra. Allora, 1, 2, 3, prova radio. 1, 2, 3, prova radio. Boh, mi sa che sono precisi. Perlomeno, pensavo ti avvicini la radio più vicina alla bocca, tu. Poco a poco sembrava più forte, ma mi sa che sono uguali. Ah, sono uguali. Vabbè, meglio così, dai. Questa sembra più squillante, infatti. Aspetta, 1, 2, 3, prova. 1, 2, 3, prova. 1, 2, 3, prova. stavo fischiettando adesso, io ce l'avevo troppo vicino alla bocca. Ehi, già lo so, grazie. Adesso ti ho cambiato l'antenna adesso, mi senti? Sì, che ti sento. Allora, diciamo che il Boyfang ha la ricezione migliore di questo, eh. Beh, Brittella, cosa vai a Bozzi? Oh, cla, stavo mandato un messaggio prima, guarda un po' la differenza da questo, 1, 2, 3, prova, a questo qua, 1, 2, 3, prova, 30, 40, 50. Allora, il primo passaggio che hai fatto è più forte anche di segnale. Sicuro sì. Guarda un po', aspetta, guarda, stessa posizione, 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova. Stessa posizione, da me, tieni conto che c'è l'antenna che sta oscillando, da me il primo passaggio è più forte. Vabbè, guarda, l'altro è Intec, ma già va bene, comunque mi ascolti bene lo stesso. Alla grande. Ragazzi, non ha fottito il segnale, interessante ascoltarmi, da. Mi c'è anche Graziano qua. E dove è Graziano? È motocarro. Senti. Sì, già ti sento, non sono sordo. Caduto. Vento, vento, vento e acqua, vento e acqua. Claudio, mi copi? Ti ho detto di sì. Ah, tu sordo sei, Graziano, ti ho detto di sì. L'ho sentito. Io ti ho detto di sì. Non intendi, Luca? Beh. Sono due Graziano qua. Su diavolo, ti ho detto di sì, Grazia, ti sento. Andiamo, andiamo, che è? Che c'è vento? L'ho messo dritto e non ti sentivo. Coricato così alto ti ho sentito. E mettitelo dritto invece di mettertelo coricato. No, se lo metto dritto sei disturbato. Invece cucato così di traverso sul tavolo arrivi bene. Adesso mi attacco l'altro, va. Sennò con questo devo già butturarmi lo gambo, gira a destra e gira a sinistra. Luca, è l'altro uguale. Che cosa, Grazia? Adesso questo è uno e questo è un altro. La radio che stai usando. Cosa, Grazia? Scusa, le sto facendo cose io. Cosa hai detto? A Luca gli ho chiesto se era la stessa radio o ha cambiato l'antenna. No, radio diverse sono, Grazia. Una è Intec e l'altra è Milan. Ah, io pensavo stavi cambiando prima l'antenna e poi l'altra antenna. No, no. E comunque già esce bene, ya. Vabbè. Vicino, siamo vicini noi due, vabbè, anche Claudio mi ascolta bene, va bene così, dai, andare. Anche se siamo vicini ti sento bene io, e che bene come radio, anche lontano ti sento bene io, oppure gli altri lontano si sentono bene, secondo uno magari si sente più basso, però già si sente. Vabbè, certo. Cazzo, va giù mal di reni oggi, quello destro. Mi sta giù da casa un buco su gabolo di 5. Oh, ma non mi va di nuda, migliori. Ah va, mi piglio una tacchettina. Ma perciò è carrogna. No, secondo me c'è qualche blocchetto. Ah, capito. Perché io soffro anche il reni. Tutte e due, da fanco, oggi e cazzo, cioè oggi da rimani, però era di meno ieri, oggi è di più, mi tira pure l'anca, e mi dori, adesso ho preso la taxi, anche la biglietta. Ehi, lascio un quaio. Presa! Aspetta, grazie. Lui, e poi, mangiando sta. Ehi, grazie, dimmi. Ehi, no niente, me l'ho presa, due me l'ho preso, sono da 500. E lì se mi va zinuta, ma un cubello mi gocca. Bubu, andiamo dove andiamo? Ehi, due sono da me, fa 1000. Un po' già me lo allevia il dolore, eh. Mi a me, ma c'era anche Emanuele, Emanuele ci sei? Cinco. Mi pare che non erano i resi. Un attimo, mica non brinca, dallo 10 alla 23 allo BMR, dallo BMR alla 10 alla 23, ciu ciu. Ah, Drummiglio, non l'ho sentito Emanuele. Sì, dice che era nel 10, manco io l'ho sentito. Va bene, dai. Lui, se vuoi parlare, andiamo sul 23 a parlare, dai. Tanto lo stavo facendo prove, io mi sono rotto le balle di stare sempre provando e facendo. Se vuoi parlare il 27 andiamo sul 23. E allora lo attacco, attacco anche quello, dai. Sì, lo attacca al baracchino, grazie, che andiamo sul 23, dai, facci due chiacchiere. Oh, cra, io sono qua, mi sono spostato un attimo, sono andato in frigo. Grazie, adesso ti mando un'altra foto, aspetta. Senti al 23, Luca, dai. Capito? E adesso lo prendo che ce l'ho qua nello sgabuzzino, ma lo devo collegare. Sì, vabbè, dai. Accendete sul 23. Ehi. E io sono qua, cra, sono qua al 23. Sì. No, adesso cominciamo a fare prove, provette, microfono contro microfono, a me non mi interessa. Dai, andiamo al 23. Cabagaba. Quello è uguale a quello che ho conservato dentro la scatola, Luca. È uguale identico. È come questo che ho, però. Questo c'ha la batteria più grande. E quello lì ce l'ho conservato io. È nuovo nuovo dentro la scatola. Infatti, quando stava a arrivarmi questo, usavo quello. Poi mi è arrivato questo, ho usato questo e quello l'ho conservato. E adesso me ne pongo in giro. Oh, basta uno. Uno, due, là. Lo so, grazie, però... come si dice? Vabbè, giusto per provarlo, dai. No, anche io l'altra volta ne l'ho acceso da sul soffalto e l'ho provato una mattina, poi ti raggiungerà da pulire e mi uso sempre questo. O se no c'ho l'altro lì. Adesso attacco il baracchino, va. Sì, ok. Manuele. Grazie, canale 23. Prova. Giomari, domitaci. Prova Giomari, prova. Sono qua su questo PMR. Chi è? C'è qualcuno che mi ascolta? Avanti. Giulio, mi senti? Prova. Chi è che sta parlando lui? Giulia, qualcuno mi ascolta? Boh, io ho detto avanti, ma se no, non vengono avanti così avete voce. Avanti, chi è che chiama? Non viene avanti. Vuol dire che non sto uscendo, boh. Ma chi tu? È la voglia. E se non mi sente, vuol dire che, boh, non sto uscendo allora. Tutto a fondo scala. Comunque, aspetta, mando un messaggio, cla. Ehi, non parlare qua, se mi devi comunicare cose, parla al telefono, ok? Seccato, se non sollevi il volume di quella radio, come pretendi di ascoltare? Claudio. Manuele. Ebbene, quello di piombo. Ehi, Manuele. Che mi dà un controllo di radio, bene, sta arrivando. Lui, mi senti? Luca! Sì, mi senti? A voglia. Ti ascolta un bel forte, lui, un bel forte. Ok, lui, ma cosa? Ci sentiamo dopo? Ma questa qua bene va, l'Intec. Sì, forte lui, bel apparecchio, sì. Andava, dai. Sta chiamando Claudio 27, canale 23. E chi c'è lui? Io, Claudio, che è gufo. Gufa andata a mettersi la supposta. Dillo! Venga, a bordo! Sul 23 siamo! Sul 23! Ma cagazzo, mi senti prendere poco a brutto! Fino al 23! Non ci sono sul 23, oh, cla! Non c'è? No, ci sono, sono in strada. Ah, mi intendi? È vero. Aspetta che rispondo a Giulio. Manuel. Ginko. Cos'è, Ginko? Manuel, sono 23 con Graziano e con Giulio. Andiamo, vero, andiamo, chiata. Vabbè. Venite lì se volete parlare, se no non ho più nessuno che sta 27, dai. Ma io, Cla, troppo vado via, dai, mi porto il PMR appresso. Sì, a Manuel sto dicendo. Ho detto Maria che c'è freddo fuori, poco vi credo. No, no, esce a male che gotti, ti canta la zamba. E mi sfatti messo cuore la camicia a male che gotti. No, portati un giubbottino leggero estivo. C'ho tutto a casa, che non ne ho giubbottini leggeri qua, forse ce l'ho smanicato. Boh, portatelo comunque perché c'è freschetto. Ma vado. Ehi, Mari! Ehi! Che ti facendo c'è? Eia! L'ho visto sì. In compugno, sono andato in compugno. Ehi, vabbè, me sto guardando la TV. Ecco, senti. Ma ci dovrebbe essere Manuele. Manuele! Ginko! E allora è qui c'è il 23. E chi è il 23, Giovanni? Ah? Ho capito, chi è il 23? C'è Giulio! Diciamo che c'è Giulio! Graziano! Ci dovrebbe essere Claudio! E 3 o 4 sono, là! Gio Maria, là ti faccio due passaggi, uno è questo, uno, due, tre, prova, mi dici l'altra prova, aspetta, eh. È questa qua, uno, due, tre, prova, uno, due, tre, prova, c'è differenza? Ah, oh, la radio sono tutte e due buone, però, sai com'è? Sai com'è? Sembra più squillante questa qua. La prima mi sembra più squillante. Questa qua è più squillante, 1, 2, 3, prova, questa è la prima, 1, 2, 3, prova, questa è la seconda. Super giusto, tutte e due quasi, ma poca differenza, ma poca roba, quasi non si nota nulla. Mi sembra sia quasi uguale, capito? Una ce n'è la prima che mi sembra più acuta. Però ma è poca roba, no? Che parecchio è? Guarda su WhatsApp, Gio Mario, ti ho mandato la foto. E adesso la guardo, aspetta. Hai visto, Gio Mario? Bellino è. E uno tengo qua, l'altro a casa dopo da mamma. Vai. Quello che ho io è migliore, dai, catta, c'è il display, è grande, che bello, ma hai visto quello che ho io? Sì, l'ho visto, Gio Mario, l'ho visto, mi ha mandato la foto. È bellino questo, dai. Ah, quello stai usando? Ehi, quello li sto usando adesso. Ma nuovo è? Nuovo sì, non è nuovo di pace, non è nuovo dal negozio, è usato, ma è nuovo. Sai, è bellino, dai. Dai, è bellino. Ma c'ha il display piccolini, cazzo, invece quello che ho io c'ha il display grande, è bello, cazzo, e poi c'ha anche doppia ricezione, capito? Vabbè, Giovanni, che ha il display piccolo, chi se ne frega, già va bene, già, mi pongo i picciti, vai dallo, andava bene, dai, va, no, non posso affrontare le spese, Giovanni, c'ho una spesa molto grossa, è un casino, dai, non posso spendere. Per il momento, poi quando ho la possibilità allora lo faccio. Me ne compro una come si fa, dai. Scaccia. Per adesso allora va benissimo, e a Puglia. No, ma vanno bene. Atta, vanno bene questi portatili. Scaccia. È un bombo. No, bellini, vanno benissimo. Per noi, cazzo, Puglia, cazzo, cosa vi pretendo? Poi magari qui là, quando ci sono le possibilità, magari se ne prendo uno come si deve, cazzo. Va bene ugualmente, dai. Ehi, Gio Mario, vieni a fare i buchi. Va benissimo, sì. Vanno bene, sì. La batteria purtroppo lascia il tempo che trova, cosa vuoi fare? La devi caricare ogni tanto. Però là, così ne ho. Ma non so se portarlo qua, che uso l'altro, che si scarica o carico, boh, adesso vediamo, là. Perché magari per casa, vogliono quelli, insomma, da base piccoli, capito? Quei veicolari, piccolini. Cazzo, quelli sono miti. Per cui il portante, sì, anche il portante, vabbè, anche quando vai in macchina te lo metti appresso, e anche quell'altro pure è migliore, o perlomeno. Io ce l'ho il portante, ripeto, ma non lo uso quasi mai, io ho quello piccolo veicolare che è piccolino, ma è bello, dai. Sì, infatti già, signor Mari, domani dovrei passare, non ti crea problemi, domani verso mezzogiorno, massimo mezzogiorno e mezzo a passo. Fa uno squillo prima di passare, magari io verso mezzogiorno, fino a mezzogiorno ci sono giù, capito? Per cui già tutta la mattina è giù, farò stare qua sempre buttato, allora me ne scendo giù e ammazzo qualche cosa, senti bene, c'è pure, non per niente di qua, però qualche cosetta la posso sempre, per cui appasso l'ora così, tutto lì, comunque passa domani mattina, fammi lo squillo prima se sono giù. Eventualmente sto scendo, capito? Sì, Giovanni, ti chiamo per quello, dai. Tira su, tanto tra un po' devo andare, dobbiamo scendere in campagna, dai. Ma ti chiamo dopo, Giovanni, se mi senti da giù, ok? È tutto acceso, sia uno e l'altro qua, d'accordo? Cielo! Che mai? Ehi! Andiamo dove andiamo? Che c'è? Andiamo dove andiamo? Non si è sentito ancora, no? No, Gio Marì, niente. Allora, passeggeri di Grugani. Avviro, appresso a Rugani, Rugani andato, sei tu fatto. Che Marì? Che? Oh, che tu sì. Ehi, Gio Marì, mi senti? Sì, mi senti ancora? Ti sento, che cazzo, una canonata, Sempre chi su, Gio Marì? Ah? Sempre chi su, Ehi! E c'è Samara nelle scale! Ah? C'è Samara nelle scale! Boh! Via! Senti che freddo pure, vero, Ma dove sei? Casa tua, Lu? Sono qua, Gio Marì, sempre vicino a te! Ah, credo che fosse a casa tua! Ma perché ti ho sentito 27? Ma la 27 pure c'hai lì? No! Per caso ti ho sentito 27, lo vedi tu? Ah, sì! Ah! Andiamo via! Io un po' mi senti Gio Marì ancora! Mi sto guardando un film anche, capito? Per vedere fino a dove arrivo, dai! Ah? A vedere fino a dove arrivo, se mi sentivi. Io sono qua a Via Cilea. Mi si alza la scala qua. Arriva. Va bene quell'apparecchietto. Voglio vedere fino a dove arriva, dai. Oh, va bene. Stai arrivando abbastanza, dai. Vabbè, sono ancora vicino a te, sono in Via Cilea. Forse per quello. Ah, in macchina sì. Allora, a piedi. Ecco per quello quando scava qua. Mi ascolti Giovanni? E dove sei adesso? La Brittella sono giù in fondo. Va bene ancora, a Puglia. Benissimo. Vabbè anche tu, tutto a fondo scala. C'è l'esterna per quello, capito? Cosa c'è? L'esterna! Ah, ho capito. Per cui arrivi bene anche. Dove sei diretto? A Città Mercato? No, è chiuso la Città Mercato, no, stiamo andando alla Flow Guard, Giovanni. Ah. Va bene allora. Arrivi, tu non ti sei perso un secondo, Sembra a fondo scala, sono in Viale Porto Torres. Ah, ho capito. La bomba è sta radio, Gio Marì, è una bomba quella radio. Cazzo, si sente sì che va bene quella radio. Va benissimo. No, la tua, Gio Marì, non la mia, la tua, c'è un bel forte. Cazzo. Già va bene. È quello che... Ho usato quello che hai visto sul telefonino che ti ho mandato, quello sto usando. Il portatile? Ah, ho capito, sì. Quello lì, l'ho messo al adattatore, attaccato all'antennino. Va bene anche questo, Sì, Gio Marì, va, una bomba, una radio meravigliosa, bella, amplificata, bella. Fa piacere, va. Mi fa piacere. Cazzo. Già costa, però già va bene. Costa un bel soldi questo qua. Atta. Però va benissimo, dai. Ma adesso sono al cimitero, sulla strada di Alghero. Eh, va bene, cazzo, ancora perfetto. Tu lo stesso, sì. Non sei sparito per niente, allucinante. Eh beh, lo senti che sei in macchina, va bene quell'apparecchietto, Per cui, perlomeno, io ti sento perfettamente. Sì, adesso sono arrivato quasi a Flow Garden. Va sempre bene, lui, va sempre bene. Io penso che sei più salutare, è bene ci sento, capito? Io Maria, adesso sono fermo qua da Flow Garden, mi senti? Sei a voglia! Andava allora, già è a posto, là. Sì, no, è a posto, grazie. Ci sento bene pure, dai, va bene quell'apparecchietto. Sì, Gio Maria, sono andato a Muglio. Va bene lui, va benissimo. Ottimo. Beh, dai, guardate la TV, poi avete, ti chiamo, non sto scendendo zona campagna. Dai, vediamo un po' se mi ascolti anche da campagna. Ehi, ehi. Attenzione signor Bacchisio. Attenzione signor Bacchisio. Attenzione signor Bacchisio. Giovanni, mi senti qua? Sono alle Luppi Pedranietta. Ti sento sempre lui, dai, ti sento sempre perfetto. Ok, dai, per arrivare in campagna ti chiamo, vediamo un po', se mi ascolti da campagna. Va bene, dai. Ah, va benissimo, hai visto, dappertutto ti sento. Attenzione Gio Maria. Avanti tu. Buonasera. Asco, ma non hai sentito Bacchisio, no? No, non ho sentitolo. No, sento per lì, è sempre acceso qua. No, c'è Luca del Monte e basta, non ho sentito nessuno. Sì, ho non ha gana, o si senti male. Mi senti Giovanni? Sì, che ti sento, dove sei adesso? Ah, sto prendendo la bretella, vicino a GLS. Ma rientrando o andando sai? Andando sono. Ah, dove sei andato? Campagna? In Compugna, Giovandini, Compugna. Ah, ecco. Va bene, arrivi ancora bene. Vediamo un po' se ti sente attore. Tu lo senti a Luca? Forte e chiaro. Ciao Luca. Adesso ti ho sentito bene, Topo. Poco fa ti sentivo male. Ciao Topo, buonasera. Aspetta un attimo, Giovanni. Non ho capito, no. Giovanni cosa ha detto? Non ho capito. Tore, mi senti? Gio Maria, mi senti? Eccomi qua, di nuovo. Arrivi tu, sì. Sì, Gio Maria, sto prendendo Caniga, mi senti? Arrivi sempre qua. Va bene, dottore. Ehi, Gio Maria, dimmi. Cioè, mi senti? Sì, a voi, Gio Maria, porta è chiaro. Aspetta, stavo dicendo a Tore. Tore, mi senti? Sì, sono attendo a te, oia. Anche tu lo scherzi. Anche Luca, a Luca, sentito lei adesso. Forte e chiarissimo lo sento a Luca. Però un bel di voci deve essere che passa nei punti dove non prende. In macchina è verso Canica, dai. E magari io lo sento. Ma dove sentire anche tu? Vedo un po', lui chiama a Tore. Giovanni, a Tore lo sento a tratti, a te ti senti ascolto benissimo. Prova a Tore se ti senti. Strano che mi intende a tratti a me. Anzi, mi dovessi vegliare più bene. Arriva meglio Gio Maria comunque, tu. Già ti ascolto, mi senti tu a me? Sì che ti sento, è abbastanza bene. Ma siamo le vostre. Sì, so che è Gaimo. Ciao, Emanuele. A voglia se ti sento io. Caspita. Sono quasi arrivato a campagna, dai. Sì, salutami da quando arrivi. Ma te la saluti in Sassarese o in Compugna? Come ti vuoi, fate che me la saluti. Sì, ma non mi rispondi però. Io daggio il riposo, sei tu che non riposo a me. No, la campagna non mi rispondi, ma saluto a te. Camari! Arrivi bene pure, cazzo. Cazzo, ammalò, passato l'hai. Come? Ammalai. Se sei verso quella zona, passato l'hai. Guarda, sono quasi arrivato a Punta di Laino. Vedrai che anche giù, quando arriviamo nel posto, ti sento anche. No, ma la fa no, Gio Maria, io devo girare a destra tra un po', capito? Ma la fa non lo prendo. Proviamo a vedere, siamo qua. Tutti a provare a vedere un po', capito? Adesso infatti si è abbassato il segnale, però la radio è buona ugualmente. No, tu sei sempre forte, Gio Maria, una bombetta. Perché ho mangiato stiracci oggi, per quello. Ma con che sei, con Marina? Allora, mi sa che sei tu la torre di controllo, altro che... salutala. Grazie. Buonasera, Marina. Ricambio saluti. Ciao Mari, mi sa che sei tu la torre di controllo, non è più Claudio. Va bene così, Lu. Tore! E Lu! A me intendese? Sì, forte e chiaro. Anche tu ci arrivi, va bene, vai così. Se non ti arrivo io, poi... Oggi Mari arriva molto, molto bene, ma molto più triste. Guarda per Maria, va bene. Chiara, chiara. Adesso li sto gonfiando, Luca. No, veramente, Gio Mario, io le cose gli dico, non le dico ma per far contento alle persone. Non sto dicendo perché l'abbiamo finita. Vabbè. Ma vanno bene, là, questa geggia, anche se sono piccolini, vanno bene, Luca. Ma anche quello lo scherza, Anche quello lì lo scherza, sta arrivando bene qua, Amore! Caspita, bubù! Forse c'è il signor Marchisio, attento signor Marchisio! Chi si è acchiappato in topi, in garage e stanno chiacchierando, Aspetta, gli faccio una chiamata a vedere. Vai, vai! Sei arrivato, sentite sempre? Sempre, arrivi ancora, dai! Quella geggia va benissimo! A voglia, catta! Bigaroli! Ciao Mari! Guarda tutta, là se ti sta bene! Figaro! Chi è? Come senti, Figaro? No, ti sento con le orecchie io, col naso ti sento! Andiamo, dai, andiamo! Bubu! Arrivito sì! Arrivato a casa! Io Gio Mari! No, stavo parlando con Manuele, arrivi tu ancora lui! Dove sei? Proprio sulla vallata? Arrivi. Segnale 3, però la radio è buona, dai. E tu ci arrivi, poi sei chiaro. Eia, va bene. E dove è andata a finire, Giamari? Allora. Ma Tore che aggiunta la cadria. Ma Tore deve fare l'antenna. Addirittura. Ma vero, No, sta facendo la chiamata a Marchisio. Forse al telefono con Marchisio. Sì, buonissima la stessa avanti, nel dubbo. Ma, per carità, ragazzi. Tore, è Belù. Sei sotto il sedile della macchina. Eia, mi senti Giovanni? Eia, forte e chiaro. Anche qua arriva benissimo, Mari, una potenza, sì, potenza. Per via del tempo che c'è il vento, per quello che sta arrivando forte. Va bene, dai. Il tempo sai com'è. Vuol dire che è stata buona e per cui arrivi bene. Ma allora senti a Luca. Eia, già lo sento. Comunque, Giovanni, già va bene con l'antenna che c'hai, dai. A voi la si esce, se non esci per con chissà, con cosa le pesci. Faccio, va bene. Va benissimo, ottimo. Giovanni. E chiaro l'iniezione, Manuele. No, sono come delle abitudini, Giovanni. Già lo sai che io li dimmo l'iniezione. Io non li dimmo io. Cazzo, però... io ho fatto 10 e una ventina mi sembra che l'abbia fatto e ho terminato, un'altra ce n'è solo, un'altra devo fare, lunedì che viene mi tocca l'altra, per cui ne faccio una ogni settimana. No, io una ogni giorno per 5 giorni e allora speriamo che mi basti e che dolori. Speriamo bene, dai. Vediamo un po', Luca! Mi senti? Ti sento ancora! Ti senti? Ti arrivo, bene? Gio Maria, a fondo scala, sì, perfetto, sono la telefonata, ti sento benissimo. Bene. Emanuele, bene ti arriva? Non arriva qua, no. Bene, Emanuele, dai! Dai. Arrivato ti è? No, vai tu più forte che arrivi qua, tu le volte... E grazie tu, Gio. Adesso ti hai scordato un bel bene. Io come arrivo? Tu hai visto che tu arrivi bene. Claudio, tu sei? No, Luca. Chi è? Avanti. Come ti arrivo, Luca? Ma sì, anche tu arrivi, Tony, bene. C'è mai coincidenza, buonasera a tutti. Ciao, Tony. Bigio Maria. Ciao, Tony. Come mi sto usando, Bigio Maria? Va bene. Ci com'è? Cosa vuoi pretendere? Ma va bene, gatta, Tony, va bene. Sì, che c'è Emanuele, di che mi fate chiamare di chiappe che le ci ha fatto l'illusione, Emanuele. Ehi, ciao Tony, ben sentito. Ehi, vabbè, ce l'ha detto anche a me che ci ha fatto l'illusione, ce l'ha fatta mettere oggi. Ah, io ormai ne posso fare tante lezioni, la giornata 50 ormai ha fatto già il carro nella seduta. Avanti Tore. Ciao Tony. Cosa vuoi fare? Vuol dire che stasera è toccata a lui. A prenderla. Non ridi masciai, da, se no da bui. Non lo confortiamo bene. Emanuele già ti passa più un po'. Si è tornata disegnato. Io quelle lezioni le ho già fatte anni fa, uno o due anni, e poi mi ritornavo di nuovo dolore, quindi inutile che rivolto anche tanto. E vabbè, io adesso la prima volta che le faccio, adesso vediamo un po'. La prima, ti ripeto, stamattina come sono alzato ero tranquillo, sì, c'avevo un fastidio, sì, però mi sono alzato tranquillo, senza dolori. Così, dimmi Giovanni. Ma hai controllato a quanto è l'uscita? No, perché non ci capisco un piffero, dove devo andare? Ragazzo, leggo sul manuale, ci sono i vocali, ci sono, mi sembra che in tre punti esce. Sì, Giovanni, è scritto in giapponese, Io non ho capito nemmeno, perché è scritto tutto, in inglese, io l'inglese non lo mastico, per cui, però c'ha tre uscite quello lì, capito? Scappa, quando capita poi Emanuele glielo faccio vedere a lui. Comunque oggi ho saputo una bella cosa, cioè oggi, ieri, praticamente con la legge dal 74% di invalidità fino all'80-100%, ogni anno danno lo scivolo di due mesi l'INPS. Io sono dal 2015 che ho il 75%, quindi un punto in più del 74%, quindi ho recuperato 10 mesi. Il giro di conti che mi sono fatto praticamente la commissione di pensione io. Oh, Manuè, io l'ho capito adesso, perché me l'ho interrotto. Se fa un po' se ne va in pensione, stava dicendo Tonino. Ah. Giovanni, mi devo dentro adesso, mi sei? Ehi, arrivi sempre. Va benissimo lui, anche se sei dentro casa. Allucinante, come dico mi va? Ti ascolto veramente bene, mi affianca a me. Che tu lo scherzi, va benissimo la RAI, è forte e chiaro, Berto. Benissimo. Arrivi forte qua, forte e chiaro, ma ti vuoi te lo diga? Anche tu arrivi bene adesso, dai, tratteggiato arrivato, ti ascolto bene anche a te. Aspetta che ti manda a Tonino a vedere se lo senti. Tonino, vai per Luca a vedere se ti senti. Cappa, io sono fuori, dai. Avanti Luca, comunque, Santiago sente Radio 5 a te, Luca. Tonino, ti sei a fondo scala qua, Radio Super 5. Arrivo anche da te, meglio così. Sì, praticamente sei quanto è Claudio, quanto è Gio Maria di radio di segnale, dai. Passo, comunque già arrivo, dai, vi ascolto tutti bene, non c'è problema. No, è meglio così. Avanti, Manuè. Tutti voi che siete, abbasso il loro bivolo tutti avanti, È vero. È vero. Va bene, va bene, ma vanno bene tutti, dai, vanno bene, e a voi ragazzi. Cazzo, siamo a due bassi da uno all'altro, per forza ci sentiamo bene. Avete tutte le radio serie, chi è che me la regala una serie di radio? Non dirà nessuno, se non ci credono. Io sto usando una portata con l'antennina di gomma. Sì, infatti, sì. Sotto i piedi. Sotto i piedi, se te l'ho detto, con la tenina di gomma. Amico, mi ascolti con la tenina di gomma sotto al letto. Attore! Ehi, Giomarì! Chiama Bacchisio se sei, taglio! Sì, Giomarì! A chiamare Bacchisio, ha detto. Ma ci siamo a dare un telefono, manca un telefono, mi rispondi. Sta cucando. Non lo so. Ma ci prova a chiamarlo. Vuol dire che è impegnato. O fa rimanere il burrone. Non lo so, non so cosa dire. Va bene, va bene. Vai Tony. Cappa. Grazie, microfono perché ora faccio QRT, perché devo andare a prepararmi qualcosa di buono, che oggi ho molto appetito. Ok, buon proseguo, vi ascolto. Ciao Giomaria, ciao Tore, ciao Luca e ciao Emanuele. Statevi tutti bene, alle prossimine, ciao ciao. Ah, Emanuele, te lo sai, tanto ha messo più già fino all'America, quindi non si può fare nulla. Ciao a tutti. Sì, vabbè, non c'è problema, settimana prossima, dando una gana a due. Dando una gana a Gesù Cristo che lo faceva, perché oggi c'è maestrale pure, troppo tempo brutto, dai. Ha messo pioggia, quindi. Sì, ok, dai. Dai, ci sentiamo, Tony, dai. Vai, Giomari. Ciao, Tony, ci sentiamo, ma prossimamente ci sarà, cioè, ci sentiamo. Ciao, vai, Tony. Ciao, Tony, stammi bene. Sentiamo alle prossime, ok, ciao. Luca, Luca è impegnato adesso. Allora, vabbè. Non ho capito, in che zona era? A parte in campagna della ragazza. Ma giù dopo il prato. Boh, non lo so dire proprio dove va. Ma penso c'è la parte di carica in quella zona là. Lì, guarda che per uscire lì, anzi, stava arrivando, perché lì c'è un fosso proprio. È arrivato anche nel fosso, Arrivava anche nel posto, lo sentivo perfettamente. Ma è quell'apparecchietto veramente esce forte. Sì, ci ha abbassato il segnale in quel posto, però la radio era buonissima. Sì, se li dovrebbe cambiare un'antenna più superiore a quella lì, dovrebbe uscire ancora meglio. Va bene, cazzo. Su quelle prove va bene quell'apparecchio, per cui non c'è da dire, dai. Per essere un portatile va bene, dai. Ah, già vanno, i portatili già vanno bene. Se sono trovati di uscita, vuole che vanno bene. A proposito, stamattina me lo stavi dicendo, poi abbiamo cambiato discorso, ma eventualmente domani mattina ne parliamo, Manuele. Sì, già ci vediamo domani al magazzino, va. Sì, va bene, tra le vie, Tore. Ma io però, parla e alza la voce perché ti sento basso, Adesso lo guardo, vai. Un attimino, vai con Manuele. Stai caricando, Giovanni, dai. Vai, to. Ma cosa vai, to? Oggi sei moscio, sì, to. Ma no, come mi intendi moscio a me? Vabbè. Vuol dire che lo logoce, no? Che l'apparecchietto non può andare. Stai usando quello lì? Sì, cosa sto? No. Il portatile sto usando con il cavo attaccato. Avere con l'antenna esterna, sì. Sì, con l'antenna esterna, però c'ho il coso, l'8888. Ah, quello lì sta, e lì si sono trattando il bulo. E quello lì sto usando. Cazzo, non ve nulla, né frequenza perché non è nulla. Infatti se mi domandano il controllo, il boss dice che arriva in deve e basta. E siamo alla radio da arrivare bu. Ma che sapevi che ti dica? E tu ti sei capito, non smette. Che devi dire, stai arrivando a bomba e bu, il segnale non te ne busso da chi non viene. Comunque già le va bene, già le va bene qualcosa lì. Arriva benissimo. Io ce l'ho lo stesso, anche con il microfonino c'ho io. E ce l'ho anche io il microfonino, solo che a te callo avevo troppo tempo. No, già arrivano bene, già andano bene, solo che c'hanno, mi sembra, tre vatti di uscita c'hanno, mi pare. Quelli lì? No, che cosa di più, no? Di più? Quattro, non di più, quattro vatti di uscita. Sembra che c'è due, quattro e sei, mi sembra che siano otto. No, 5 watt c'ha, nella cosa io ho guardato dietro, nella batteria c'ha 5 watt d'uscita. E allora già andare bene, dai. Quindi, a buia, si viene. Vanno bene tutti quanti, cosa vuoi pretendere di più? Cazzo, questi giocattolini. Sì, i giocattolini non funzionano di bene. Perché bisogna avere giocattoloni per andare bene ancora. Sì, vabbè. Ah, già va benissimo quello lì, sta andando bene, a Puglia. Per lui giocattolino va anche troppo. Regalatemi una serie a me, cazzo, che c'è un giocattolino di gomma io. Giovanni, quando è? Arrivato, sì. No, io sono già a campagna, ho detto che quasi è arrivato il video. Ha detto che ti è quasi arrivato. Senti male. E beh, anche tu. Ui, mi sente? E come che non ti sento? E cappa. Ehi, sono qua in piazza Corna Mariana. No, vai Radio 5. Cappa, che è in frequenza? Chi è Bombolo? Oh, Manuel. Sì, a Bombolo è Giamari. E a me mi arriva basso. Eh beh, fra chi sei, e tu? Ehi, come intendi? Non so se mi ascoltate, tu? Sì. Allora, Francuzzo. Ah, cacchio, mi sei là e non mi ha passato il raffreddore. Bianco un attimo. Beh, adatto. A Puglia ci andava. Ehi. È entrato, Franco è entrato. Ciao, Fra. Ciao, Otto. Ah, mi ascolti, sì. Catta se ti ascolto io, a Puglia. Mi si arriva da bomba. Ehi, così forte sto uscendo. Ma mi arrivi benissimo. La radio è buona. Segnale non te ne posso dare che sono come un bortattilino. Cappa. Giovanni, mi ascolti, sì. A Puglia, e come? Io anche Franco. Franco, mi senti? Cappa, ti ascolto bene, dai. Non è un problema, tu mi senti a me, sì. Ehi, a Puglia. Sono qua, sono a casa, sono a... zona Manza di Lainu. Ehi, ti sento a tratti, Luca, non ho capito, forse c'è movimento, bu. Eia, eccomi qua nuovamente. Boh, dice che ci senti a tratti, fra. Ma io arrivo a tratti. A cosa? A Franco, l'arrivi così, così hai detto, fra. Se sentiva a tratti, che vi siete sovramodulati. Ehi, sono rientrato, mi sentite? Ah, ti sentiamo. Ehi, mi sono qua in piazza Colonna Mariana, sono. Ah, si intende, gà. Va bene, va bene. Luca! No, Luca non risponde. Franco, fa. Tutti i casi da Andrea, insomma, due. Mi sono fatto delle antenne. Tore! Ehi, Giomari. Cosa vuoi fare? Secondo dove si mettono non intendi più. Di sobbo, andiamo bene, andiamo, grazie. Ehi, a tu. Ehi, dimmi. Tu bene mi senti? Cappa, ti sento bene, mi sono qua in piazza Corona Mariana, ho ordinato le pizze da Bruno. Sento benissimo, sento anche attore, sento a tutti forte. Allora va bene, va bene. Franco! Giovanni, stavo sistemando il PL dell'antenna qua. Pettina, noi chiamavamo il cazzo, ma Franco cazzo la Gandria, si prende Manuel, dai. Comunque arrivate bene tutti quanti, dai, arrivate bene tutti quanti. Eia. 3B, vabbè, io vi lascio e chiudo, dai, ci sentiamo domani, se tutto fa brodo. Per cui allora Antonio, Bombolo, Luca e Tore, Franco, Manuele, riprendi tu, io chiudo, dai, buon proseguimento serata a tutti, dai, ci sentiamo, chiudo. Ok, ciao Giovanni, buonanotte, buon tutto, ce la riascoltiamo occasionale domani mattina, dai, vai Tore. Ok, ciao Giovanni, ci sentiamo domani, se tutto andrà bene, ok. Io ne approfitto e saluto a tutti lo stesso, che mi sociamenti. Ci risentiamo, dai, alle prossime. Ciao Manuele, ciao Franco, ciao Luca e ciao agli altri che sono in frequenza che non me ne ha mentato. Comunque ciao a tutti. Ciao anche a te, dai, ci sentiamo. Buona continuazione di serata, dai. Vai Antu. Cappa, saluto Nitore, Gio Maria e tutti quanti. E anche io chiudo, dai. Ci risentiamo tutti quanti. Qui arrivate tutti forte qua. Dove sei, Antu? Sono qua alla pizzeria, da Bruno. A via Pascoli. E cosa via Pascoli? In piazza Colonna Mariana. Ascolti bene, sì. A bomba. Andava, dai, anche tu arrivi bene, eh. Arrivi benissimo. Cappa, vicino, cioè, in Chiviso, abito vicino lì a casa. Dopo che passi. Ah, cioè, tu pensa se ti pigliamo la vita e ti lavate di buona. Sì, vivi in Casa Trinità, sì, in zona. Sono in piazza Colonna Mariana, non lo so, niente, mi sono i parcheggi. Dove? Ci sono i parcheggi. Cazzo, non lo so, niente, di fronte alla chiesa del Duomo. Sì, già lo so, più o meno, dai. Più o meno per sapere dove vivi. Ah, ci sono i portici lì. Sì, ho capito loro adesso. Ehi, K. Dai, ci risentiamo, che proprio escono le pizze. Ciao, ciao, ci risentiamo. Sì, ciao tu, buona continuazione, buona pizzata. Vai, ciao, ci si. Ciao.